Ventitreesima traccia. Come la venuta di Frank Churchill avrebbe preso il posto del fidanzamento di Mr. Elton nella conversazione di Highbury, come l'interesse più recente aveva del tutto sopraffatto il primo, così ora, alla scomparsa di Frank Churchill, la faccenda di Mr. Elton assunse la forma più irresistibile. Fu fissato il giorno delle sue nozze. Presto egli sarebbe tornato tra loro, Mr. Elton con la sposa. Non ci fu neanche il tempo di parlare della prima lettera da Enscombe che Mr. Elton e la sua sposa fu sulle labbra di tutti, e Frank Churchill venne dimenticato. Emma ebbe la nausea al suono del nome. Per 3 settimane era stata felicemente dispensata dal sentir parlare di Mr. Elton. E l'animo di Harriet, essa aveva voluto sperare, era di recente divenuto più forte. Almeno con la prospettiva del ballo di Mrs. Weston c'era stato un bel po' di indifferenza per altri argomenti. Ma adesso era ovvio che Harriet non aveva raggiunto un tale stato di calma da poter resistere all'effettiva imminenza dell'evento. La nuova carrozza, il suono delle campane e tutto il resto. La povera Harriet era in un'agitazione che richiedeva tutto il potere di persuasione, di lenire e di assistere di cui Emma poteva disporre. Emma sentiva che non poteva fare abbastanza per lei, che Harriet aveva diritto a tutta la sua ingegnosità e a tutta la sua pazienza. Ma era una fatica improba sforzarsi continuamente di convincere senza produrre effetto alcuno, sentirsi dare ragione continuamente, senza riuscire a rendere identiche le loro opinioni. Harriet ascoltava docile docile e diceva che era verissimo, che era proprio come diceva Miss Woodhouse, non valeva la pena di pensare a loro, e lei non ci avrebbe pensato più. Ma nessun cambiamento di soggetto giovava, e mezz'ora dopo essa era preoccupata e inquieta come prima a proposito degli Elton. Alla fine Emma l'attaccò su un altro terreno. Il vostro lasciarvi tanto assorbire e preoccupare dal matrimonio di Mr. Elton, Harriet, è il più grande rimprovero che potete rivolgere a me. Non potreste riguardirmi peggio per lo sbaglio che ho fatto. È stata tutta colpa mia, lo so. Non l'ho dimenticato, ve l'assicuro. Ingannata io stesso, ho ingannato voi miseramente, e ciò sarà per me sempre fonte di penose riflessioni. Non credete che io corra il rischio di dimenticarlo. Harriet rimase troppo colpita da questo discorso per pronunziare più di poche parole di intensa esclamazione. Emma proseguì. «Io non ho detto sforzatevi, Harriet, per amor mio, pensate meno, parlate meno di Mr. Elton, per amor mio, perché piuttosto nell'interesse vostro desidererei che lo faceste, per amore di qualcosa di più importante, della tranquillità del mio spirito». Per abituare voi stessa a dominarvi, per il senso del vostro dovere, per l'osservanza di mia dignità, per lo studio di evitare gli altrui sospetti, di preservare la vostra salute e il vostro credito, e di recuperare la vostra serenità. Questi sono i motivi che io ho cercato di inculcarvi. Sono della massima importanza e mi spiace assai che non possiate sentirli sufficientemente da farvi guidare da essi. Quella di evitarmi pene è una considerazione molto secondaria. Voglio che voi vi preserviate da una pena maggiore. Forse posso aver sentito talvolta che Harriet non avrebbe dimenticato quello che era dovuto, o piuttosto quello che sarebbe gentile nei miei riguardi. Questo appello ai miei affetti fu più efficace di tutto il resto. L'idea di mancare di gratitudine e di considerazione per Miss Woodhouse, che essa realmente amava moltissimo, la rese infelice per un po', e quando la veemenza dell'affanno passò, la forza di consolazione, rimase tuttavia abbastanza potente da suggerirle ciò che doveva fare e da sostenerla molto tollerabilmente su quella via. Voi siete stata l'amica migliore che ho avuto in vita. Io mancarvi di gratitudine, nessuno può uguagliarvi, non mi curo di nessuno quanto di voi. Miss Woodhouse, che ingrata sono. Tali espressioni, accompagnate come erano da tutto quel che potevano aggiungere gli sguardi e i modi, fecero sentire a Emma che essa non aveva mai amato tanto Harriet come ora, né tanto apprezzato il suo affetto. «Nessun incanto è pari alla tenerezza del cuore», la disse poi tra sé e sé. «Nulla può paragonarsi ad essa. Il calore e la tenerezza del cuore, uniti a modi affettuosi e aperti, battono per fascino tutta la lucidità di mente del mondo. Ne sono sicura. È la tenerezza del cuore che rende tanto amato da tutti il mio caro padre, che conferisce a Isabella tutta la sua popolarità. Io non la posseggo, ma so apprezzarla e rispettarla. Harriet mi è superiore per tutto l'incanto e la letizia che essa dà. Cara Harriet, non ti scambierei con la donna più perspicace, previdente e giudiziosa del mondo. Oh, la freddezza di una Jane Fairfax! Harriet vale 100 come Jane, e per una moglie, la moglie d'un uomo di buon senso, è una virtù impagabile. Non voglio far nomi, ma beato l'uomo che cambia Emma con Harriet. Mrs. Elton fu veduta per la prima volta in chiesa, ma sebbene la devozione potesse venire interrotta, la curiosità non seppe soddisfarsi con una sposa inginocchiata a un banco di chiesa e dovette lasciarsi alle visite di cerimonia che sarebbero poi state fatte. La decisione se essa era molto carina o soltanto piuttosto carina o niente affatto carina. Emma aveva sentimenti meno di curiosità che di orgoglio o di convenienza che la fecero risolvere a non essere l'ultima a presentare le sue felicitazioni. E insistette perché Harriet andasse con lei, sicché l'amaro della faccenda potesse andar giù al più presto possibile. Essa non poté entrare di nuovo in quella casa, non poté trovarsi in quella stessa stanza in cui si era ritirata con quel vano artificio 3 mesi prima per allacciarsi la scarpa senza ricordare. Mille pensieri irritanti le tornavano in mente, complimenti, sciarade e orribili abbagli, e non si poteva supporre che anche la povera Harriet non ricordasse, ma essa si contenne molto bene e rimase piuttosto pallida e silenziosa. La visita fu naturalmente breve e ci furono tanto imbarazzo e preoccupazione per accorciarla che Emma non volle acconsentire a formarsi un'opinione definitiva della signora e tantomeno a darne una al di là dei termini che non vogliono dir nulla di elegantemente vestita e molto piacente. Effettivamente non le piaceva. Non voleva affrettarsi a trovare difetti, ma sospettava che di eleganza non ce ne fosse. Era disinvolta, ma non elegante. Era quasi certa che per una giovane donna, una del posto, una sposa, c'era troppo disinvoltura. Aveva un personale assai bello. La faccia non mancava di vaghezza, ma né i lineamenti, né l'aria, né la voce, né i modi erano eleganti. Emma almeno pensò che si sarebbe trovato che era così. Quanto a Mr. Elton, le sue maniere non apparivano, ma no. Non voleva permettersi da parte sua una parola frettolosa o arguta sulle sue maniere. In ogni modo era una cerimonia imbarazzante quella di ricevere visite di felicitazione di nozze e un uomo doveva essere tutto grazia per cavarsela bene. La donna si trovava in condizioni più vantaggiose, poteva ricevere assistenza dei bei vestiti e godere del privilegio del pudore. Ma l'uomo non poteva contare che sul suo buon senso. E quando essa considerava quant'era particolarmente disgraziato il povero Mr. Elton nel trovarsi nella medesima stanza al tempo stesso con la donna con la quale si era appena sposato, con quella che aveva desiderato di sposare e con quella che si aspettava che egli sposasse, Emma non poteva negargli il diritto di apparire tanto poco assennato e di essere tanto affettatamente e così poco in realtà disinvolto quanto era possibile. «Ebbene, Miss Woodhouse», disse Emma quando ebbero abbandonato la casa e dopo aver invano atteso che la sua amica cominciasse. «Ebbene, Miss Woodhouse», con un lento sospiro, «che cosa pensate di lei? Non è affascinante?» c'era un po' di esitazione nella risposta di Emma. «Oh sì, molto. Una giovane donna molto piacente. Io la credo bella, proprio bella. Molto ben vestita davvero, un abito assai elegante. Non sono affatto sorpresa che lui si sia innamorato. Oh no, non c'è nulla da sorprendere, un bel gruzzolo, ed è capitata sul suo cammino. Immagino, soggiunse Eri, sospirando di nuovo, immagino che si sia sentita molto attratta da lui. Forse, ma non è il destino d'ogni uomo sposare la donna che lo ama di più. Miss Hawkins, forse, aveva bisogno d'accasarsi, e ha pensato che questo era il miglior partito che probabilmente le si sarebbe presentato. Sì, disse Harriet con calore, e poteva ben pensare così. Nessuna potrebbe trovare un partito migliore. Ebbene, auguro loro felicità di tutto cuore. E ora, Miss Woodhouse, non credo che mi importerà di vederli di nuovo. Lui non è meno superiore di prima, ma, essendo sposato, sapete, la cosa è diversa. No, davvero, Miss Woodhouse, non dovete aver timore. Ora posso star seduta ad ammirarlo senza sentir troppa pena. Sapere che non ha sposato la prima venuta è un tal conforto. Lei sembra una giovane donna affascinante, proprio quale egli merita. Felice creatura. Egli la chiamava Augusta, com'è incantevole. Quando venne ricambiata la visita, Emma giunse a una conclusione. Allora riuscì a vedere di più e a giudicare meglio. Siccome Harriet non si trovava a Hartfield e il padre era presente per intrattenere Mr. Elton, essa ebbe per sé sola un quarto d'ora della conversazione della signora e poté serenamente osservarla. Il quarto d'ora la convinse del tutto che Mrs. Elton era una vanitosa, soddisfattissima di sé e molto piena della propria importanza, che intendeva brillare e darsi delle arie, ma con maniere che erano state formate a una cattiva scuola, insolenti e troppo confidenziali, che tutte le sue idee erano derivate da un solo circolo di persone e da un solo stile di vita, che se non proprio sciocca era ignorante, e che la sua compagnia non avrebbe fatto alcun bene a Mr. Elton. Harriet sarebbe stata un miglior partito. Se non era assennata o raffinata lei stessa, avrebbe messo lui a contatto di gente che lo era. Ma Miss Hawkins, si poteva ben supporre dalla sua disinvolta presunzione, era stata la migliore del suo proprio ambiente. Il ricco cognato presso Bristol era l'orgoglio del matrimonio, e l'orgoglio di lui erano la sua villa e le sue carrozze. Il primo tema appena si furono seduto fu Maple Grove, il maniero di mio cognato, Mr. Suckling, un paragone di Hartfield a Maple Grove. Il parco di Hartfield era piccolo, ma lindo e grazioso, e la casa era moderna e ben costruita. Mrs. Elton sembrava aver ricevuto un'impressione assai favorevole dalle proporzioni della camera, dall'ingresso e da tutto ciò che poteva vedere o immaginare. Molto simile davvero a Maple Grove, era proprio colpita dalla somiglianza. La stanza in cui si trovavano aveva esattamente la forma e le proporzioni della stanza di soggiorno antimeridiano a Maple Grove, la camera favorita di sua sorella. E a questo punto si rivolse a Mr. Elton. Non c'era una somiglianza stupefacente? Essa poteva davvero quasi immaginare d'essere a Maple Grove. E la scala, sapete, quando sono entrata ho osservato quanto era simile la scala, collocata esattamente nella stessa parte della casa. Davvero non ho potuto trattenere un'esclamazione. Vi assicuro, Miss Woodhouse, è per me una delizia trovare un luogo che me ne ricordo un altro a cui sono tanto affezionata come Maple Grove. Ho passato là tanti mesi felici, con un piccolo sospiro sentimentale. Un luogo davvero incantevole. Chiunque lo vede è colpito dalla sua bellezza. Per me, poi, è stato come un secondo focolare domestico. Quando sarete trapiantata come me, Miss Woodhouse, capirete che delizia è incontrare qualcosa che assomigli a ciò che uno ha lasciato. Ho sempre detto che questo è uno dei mali del matrimonio. Emma diede una risposta vaga il più possibile, ma fu del tutto sufficiente per Miss Elton, che voleva essere la sola a parlare. Proprio così simile a Maple Grove, e non soltanto la casa. Il parco, vi assicuro, per quel che ho potuto osservare, colpisce per la sua somiglianza. I lauri a Maple Grove abbondano quanto qui, e sono disposti quasi nello stesso modo, proprio attraverso al prato. E ho visto di sfuggita un bell'albero grande, con un banco intorno, che mi ha dato un ricordo così vivo. Mio cognato e mia sorella rimarranno incantati di questo posto. Chi ha un gran parco si compiace sempre di vedere qualcosa del genere. Emma dubitò della verità di questo sentimento. Propendeva molto a credere che la gente che possedeva un gran parco si curava pochissimo dei grandi parchi altrui, ma non valeva la pena di combattere un errore così marchiano, e perciò rispose soltanto: «Quando avrete conosciuto di più questo paese, ho paura che vi accorgerete di aver sopravvalutato Hartfield. Il Surrey è pieno di bellezze». «Oh certo, ne sono perfettamente consapevole. È il giardino dell'Inghilterra, sapete. Il Surrey è il giardino dell'Inghilterra». «Già, ma non dobbiamo far riposare il nostro vanto su codesta distinzione. Credo che ci siano parecchie contee, oltre al Surrey, a essere chiamate il giardino dell'Inghilterra». «Ma non credo», rispose Miss Elton con un sorriso quanto mai soddisfatto. «Non ho mai sentito chiamar così nessun'altra contea». Emma fu zittita. «Mio cognato e mia sorella ci hanno promesso una visita a primavera, in estate al più tardi», continuò Miss Elton. «E quello sarà per noi il tempo di esplorare. Quando saranno da noi esploreremo un bel po', immagino. Avranno il loro landò scoperto, è naturale, che può contenere perfettamente 4 persone. Credo che non verrebbero con la loro carrozza da viaggio in questa stagione dell'anno. Anzi, quando si avvicinerà quel momento, senz'altro raccomanderò loro di portare il landò scoperto. Sarà tanto più preferibile. Quando la gente arriva in un paese bello come questo, sapete, Miss Woodhouse, si desidera, com'è naturale, di far vedere loro quanto più è possibile. E Mr. Suckling va pazzo per esplorare. L'estate scorsa abbiamo esplorato fino a King's Weston per 2 volte a quel modo, con grande diletto, proprio quando avevano da poco acquistato il landò scoperto. Suppongo, Miss Woodhouse, che ogni estate abbiate qui parecchie comitive del genere. No, non proprio qui. Siamo piuttosto distanti dalle bellezze sensazionali che attirano il genere di comitive di cui parlate. E siamo gente molto tranquilla, crede. Molto più propensa a rimanere a casa che a intraprendere gite di piacere. Ah, per godere davvero di tutti i comodi non c'è nulla come rimanere a casa. Nessuno può essere più affezionato di me alla casa. Ero diventata proverbiale per questo a Maple Grove. Tante volte Selina ha detto, accingendosi a recarsi a Bristol: «Proprio non mi riesce di smuovere di casa questa ragazza. Assolutamente bisogna che io vada da sola, per quanto io detesti di rimanere imprigionata in landò senza compagnia». Ma Augusta, credo, con tutta la sua buona volontà, non oltrepasserebbe mai il recinto del parco. Ha detto così parecchie volte, eppure io non sono una delatrice dell'isolamento completo. Credo, al contrario, che quando la gente s'apparta completamente dalla società è un gran male, e che è assai più consigliabile avere rapporti col mondo in giusta misura, senza vivere in esso troppo o troppo poco. Tuttavia, capisco perfettamente la vostra situazione, Miss Woodhouse», dando un'occhiata dalla parte di Mr. Woodhouse. «Le condizioni di salute di vostro padre debbono essere un grande impedimento. Perché non prova Bath? Dovrebbe farlo. Lasciate che io vi raccomandi Bath. Vi assicuro che non ho dubbi che farebbe bene a Mr. Woodhouse. Mio padre l'ha provato più di una volta in passato, ma senza risentirne alcun beneficio. E Mr. Perry, il cui nome, immagino, non vi è ignoto, non pensa che riuscirebbe affatto più giovevole adesso. È un gran peccato, poiché vi assicuro, Miss Woodhouse, che laddove le acque si confanno, è meraviglioso il sollievo che possono dare. Durante la mia vita, a Bath, ne ho visto di tali esempi, e il luogo è così gaio che non potrebbe non giovare all'umore di Mr. Woodhouse, che, a quel che sento, talora è assai abbattuto. E quanto ai vantaggi che avrebbe per voi, immagino che non dovrò darmi la pena di esporli. Le opportunità che Bath offre ai giovani sono cose universalmente note. Sarebbe un incantevole ingresso nel mondo per voi, che avete vissuto una vita così appartata. E io potrei introdurvi immediatamente in alcuni dei migliori ambienti del luogo. Un rigo mio basterebbe a procurarvi una piccola folla di conoscenze, e la mia amica particolare, Mrs. Partridge, la signora presso la quale ho sempre risieduto quando sono stata a Bath, sarebbe lietissima di farvi qualche favore, e sarebbe proprio la persona adatta ad accompagnarvi in pubblico. Questo era tutto quello che Emma poteva sopportare senza essere scortese. L'idea di essere debitrice a Mrs. Elton per quel che si chiamava una presentazione in società, di andare in pubblico sotto gli auspici di un'amica di Mrs. Elton, probabilmente qualche vedova volgare e vistosa, che con l'aiuto di una pensionante riusciva a sbarcare di un'aria. La dignità di Miss Woodhouse di Hartwick era davvero caduta in basso. Si trattenne tuttavia da rimbeccare, come avrebbe voluto, e solo ringraziò freddamente Mrs. Elton. Ma la loro andata a Bath era assolutamente fuori questione. Ed essa non era proprio convinta che il luogo si confacesse a lei più che a suo padre. Poi, per evitare ulteriori offese e indignazioni, cambiò subito argomento. «Non vi domando se vi piace la musica, Mrs. Elton. In tali casi una signora è generalmente preceduta dalla fama delle sue doti, ed è un pezzo che Ivory sa che voi siete un'esecutrice di prim'ordine». «Oh no, davvero, devo protestare contro un'idea simile. Un'esecutrice di prim'ordine. Tutt'altro, v'assicuro. Considerate da che fonte parziale vi è giunta questa informazione. Io vado pazza per la musica, ci ho una vera passione, e gli amici dicono che io non manco del tutto di gusto. Ma quanto al resto, sul mio onore, la mia esecuzione è quanto mai mediocre. Voi, Miss Woodhouse, lo so bene, suonate in modo delizioso. Vi assicuro che per me è stata la più gran soddisfazione, consolazione e letizia sapere in che ambiente musicale sono entrata. Proprio non posso fare a meno della musica. Mi è necessaria quanto la vita. Ed essendo sempre stata addetta ad un ambiente musicale, sia a Maple Grove che a Bath, sarebbe stato un sacrificio molto serio. Lo dissi francamente a Mr. Elton, quando mi parlava del mio focolare futuro, ed esprimevo i suoi timori che la vita appartata dovesse riuscirmi spiacevole, e anche dell'inferiorità della casa, sapendo a che cosa ero stata abituata, naturalmente egli non era interamente senza pensione. Quando egli ne parlava in quel modo, francamente gli dissi che al mondo io potevo rinunziare a inviti, balli, spettacoli, poiché non avevo timore di una vita ritirata. Avendo la fortuna di tante risorse interiori, il mondo a me non era necessario. Potevo ben farne senza. La cosa era ben diversa per chi non aveva risorse, ma le mie risorse mi rendevano affatto indipendente. E quanto a camere più piccole di quelle a cui ero abituata, davvero non ci pensavo affatto. Speravo d'essere perfettamente all'altezza di ogni sacrificio del genere. Certo, a Maple Grove ero stato avvezzo a ogni lusso, ma l'assicurai che due carrozze non erano necessarie alla mia felicità, e neanche due appartamenti spaziosi. Ma gli dissi, per essere proprio franchi, credo di non poter vivere senza un po' d'ambiente musicale. Questa è la mia sola condizione, ma senza la musica la mia vita sarebbe vuota. «Non possiamo supporre», disse Emma sorridendo, che Mr. Elton esitasse ad assicurarvi che a Highbury c'era un ambiente molto musicale, e spero che non troverete che egli ha passato i limiti della verità più di quanto può essere perdonato in considerazione del motivo. No, davvero non ho dubbi di sorta a quel proposito. Sono incantata di trovarmi in un tale ambiente. Spero che avremo insieme molti deliziosi concertini. Credo, Miss Woodhouse, che voi ed io dobbiamo fondare un circolo musicale e avere regolari ritrovi settimanali nella vostra casa o nella nostra. Non è un bel progetto? Se ci diamo da fare noi, credo che non rimarremo a lungo senza alleati. Qualcosa del genere sarebbe particolarmente desiderabile per me, come stimolo per mantenermi in esercizio. Che le donne sposate, sapete, in genere corrono una triste storia sul loro conto. Sono troppo proclivi ad abbandonare la musica. Ma voi che l'amate tanto, di sicuro non ci può essere pericolo alcuno. Spererei di no, ma davvero, quando guardo intorno le mie conoscenze, tremo. Selina ha abbandonato la musica del tutto. Non tocca mai lo strumento, sebbene suonasse squisitamente. E lo stesso può dirsi di Miss Jefferson, cioè quella che era Clara Partridge, e delle due Millman, ora Mrs. Bird e Mrs. James Cooper, e di molte più che io non posso enumerare. Parola d'onore, ce n'è abbastanza da incutere paura. Solevo arrabbiarmi assai con Selina, ma ora comincio a comprendere che una donna sposata ha da badare a molte cose. Credo che stamattina sono rimasta per mezz'ora chiusa a tu per tu con la mia governante. Ma ogni faccenda del genere, disse Emma, presto prenderà un andazzo così regolare. Ebbene, disse Mrs. Elton ridendo, vedremo. Emma, trovandola così decisa a trascurare la musica, non aveva altro da aggiungere. E dopo una breve pausa, Mrs. Elton scelse un altro argomento. Abbiamo fatto una visita a Randalls, disse, e li abbiamo trovati entrambi a casa e sembrano gente molto simpatica. Mi piacciono immensamente. Mr. Weston sembra un uomo eccellente. È già per me un favorito di prim'ordine, va sicuro. E lei pare così veramente buona. Ha un'aria così benevola e materna che conquista subito. Credo che sia stata la vostra governante. Emma era quasi troppo stupita per rispondere. Ma Mrs. Elton non attese neanche di ricevere una risposta affermativa e proseguì. Sapendo questo, rimasi piuttosto meravigliata di trovarla così signora. Ma davvero è proprio una dama. Le maniere di Mrs. Weston, disse Emma, furono sempre particolarmente buone. Il loro decoro, la loro semplicità, la loro eleganza ne farebbero il più sicuro modello per qualunque giovinetta. E immaginatevi chi capitò mentre eravamo là. Emma non sapeva che dire. Il tono implicava trattarsi di una vecchia conoscenza. E come poteva mai indovinare? Knightley, continuò Mrs. Elton, proprio Knightley, non è stata una fortuna? Perché, siccome non ero in casa quando egli venne a visitarci l'altro giorno, io non l'avevo mai visto prima. E naturalmente, essendo un amico così particolare di Mr. Elton, avevo una gran curiosità. Il mio amico Knightley era stato nominato così spesso che davvero ero impaziente di vederlo. E devo rendere al mio caro sposo la giustizia di dire che egli non ha punto da vergognarsi del suo amico. Knightley è proprio un gentiluomo, mi piace moltissimo, decisamente, a mio parere, un vero signore. Fortunatamente era arrivato il momento di andarsene. Partirono, ed Emma poté respirare. «Donna insopportabile!» fu la sua esclamazione immediata. «Peggio di quel che avevo supposto. Assolutamente insopportabile!» «Knightley! Non avrei potuto crederlo! Knightley! Mai visto prima in vita sua e lo chiama Knightley, e scopre che è un gentiluomo. Una piccola creatura volgare, una villana rifatta, col suo Mr. Elton e il suo caro sposo, e le sue risorse, e tutte le sue arie di pretensione insolente e di sciccheria grossolana. Scopre, né più né meno, che Mr. Knightley è un gentiluomo. Dubito che egli ricambi il complimento e trovi che essa è una signora. Avrei stentato a crederlo. e proporre che io e lei ci si unisca per formare un circolo musicale.